Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio, ultima puntata in diretta della settimana. Domani ci saremo ugualmente, però vi proporremo alcuni consigli per la lettura, ovviamente consigli di natura economica, per cui sarà una puntata speciale in questa giornata appunto del primo maggio. Oggi invece siamo regolarmente in onda in diretta, e di che cosa parliamo? Allora, l'indomani del terremoto che ha colpito l'Abruzzo è stata sollevata, lo avrete letto sicuramente su tutti i giornali, la questione del vuoto assicurativo relativo alla protezione dalle catastrofi naturali che c'è nel nostro paese. Perché? Perché in Italia gli assicuratori non hanno l'obbligo di contrarre polizze per i danni determinati da, dice la legge, movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione, da tumulti popolari. È un vuoto a metà, nel senso che esiste la possibilità di assicurarsi contro il rischio sismico, ma a condizione che ovviamente l'immobile da assicurare risponda a determinati requisiti. E in queste settimane si è posto anche in più riprese il problema della polizza obbligatoria, laddove però lo Stato fosse disponibile ad assumere il ruolo di riassicuratore di ultima istanza, perché per il sistema assicurativo un'emergenza come quella abruzzese sarebbe matematicamente, tecnicamente ingestibile, le compagnie rischierebbero di fallire. E allora perché stamattina abbiamo deciso di tornare sull'argomento? Perché in queste settimane diversi ascoltatori ci hanno scritto raccontandoci di aver sottoscritto polizze contro i danni da rischio sismico, e in alcuni di loro abbiamo generato il dubbio di non avere un'adeguata copertura assicurativa. Poi magari qualche lettera ve la leggo anche. C'è addirittura un ascoltatore da Verona che ci ha mandato il prospetto della polizza che ha firmato per capirne qualcosa di più. E allora stamattina abbiamo di nuovo interpellato degli esperti del settore per aiutarci a fare un po' di chiarezza sull'argomento. Francesco Paparella, presidente dell'AIBA, l'associazione italiana broker di assicurazione e riassicurazione, che avevamo avuto con noi anche nell'altra puntata organizzata su questo argomento. Sentiremo Giuseppe De Luca, responsabile area retail del gruppo Toro Assicurazioni, e poi Fabrizio Premuti, segretario nazionale di Adiconsum e referente per le problematiche legate al settore assicurativo di questa grande associazione dei consumatori. Ma noi soprattutto vogliamo le vostre testimonianze, vogliamo le vostre domande, vogliamo che interveniate in diretta ad aiutarci a vivacizzare la trasmissione. Ovviamente avete a disposizione, come sempre, il numero verde è l'800240024, oppure avete a disposizione un numero per scriverci dei messaggi che è il 349-238-6666. Allora rifletteteci un po' su sulle vostre domande, io intanto do un'occhiata alla borsa. Borsa molto buona questa mattina in Europa. Già ieri sul mercato americano avevamo visto un certo ritorno agli acquisti, nonostante lo stress test sulle banche stia portando già qualche risultato non propriamente positivo, perché a quanto pare si amplia il numero delle banche che avranno necessità di fare nuovi aumenti di capitale per appunto ripristinare la situazione patrimoniale. Poi ieri c'è stato anche il dato sul prodotto interno lordo del primo trimestre, -6,1%. Un dato che però, una volta pubblicato, è stato subito trascurato dalle borse, ha avuto un impatto un po' più evidente sulle valute, perché il dollaro è sceso rapidamente sull'euro e anche stamattina la quotazione è a 1,33,16. Poi ieri sera si è riunita la Banca Centrale Americana, forse da qui il mercato ha colto lo spunto per tornare ad operare degli acquisti, perché la Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi di interesse, ma ha detto che in marzo si sono intravisti dei segnali di rallentamento della discesa e quindi qualche segnale di ripresa dell'economia, per cui insomma un quadro un pochino ottimista che ha fatto ben sperare gli operatori di borsa. E ovviamente l'euforia di Wall Street contagia l'Europa questa mattina. Parigi più 1,90, Francoforte più 2,37, Londra in rialzo di 2 punti, Milano più 2,35. Quali temi oggi scatenano l'attenzione degli operatori a Piazza Affari? Abbiamo in questo momento uno scatto in avanti di Intesa San Paolo più 5,76%, CIR più 4,45%, il gruppo ha fatto conoscere i suoi dati di bilancio poco fa. Per quello che riguarda Intesa San Paolo, stessa cosa, ci sono delle dichiarazioni di Corrado Passera, l'amministratore delegato, che dice utile netto robusto nel 2009 e dividendo nel 2009, pertanto il mercato è corso subito a ricomprare il titolo. Stamattina stanno andando molto bene i titoli del settore assicurativo: Generali più 4, Alleanza più 4, Fondiaria più 4, Bene Enel più 3,33, Popolare di Milano più 2,66, più 2 per Enis, Namerete Gas, Mediolanum, Mediobanca e Saipem. Mentre su Fiat abbiamo già detto tutto nel corso del giornale radio, vediamo un po' cosa succederà nelle prossime ore sul versante Chrysler. Ci sono poche ore per rispettare l'ultimatum del presidente Barack Obama per trovare un accordo, dovrebbe essere cosa fatta, ma il mercato vedo che è ancora un po' titubante. Il titolo del Lingotto sta scendendo oggi di un punto, il peggior titolo adesso però è Autogrill, che perde l'1,18%. Direi che possiamo lasciare la borsa per andare invece al tema di questa mattina. Rifacciamo un po' un punto della situazione, visto che tra l'altro, come dire, la prima volta forse lo avevamo fatto anche in condizioni emotive non proprio rassicuranti, all'indomani del terremoto che aveva colpito l'Abruzzo. Allora rifacciamo un punto sulle polizze assicurative, almeno a che punto è la discussione nel nostro paese sulle polizze assicurative che dovrebbero proteggerci da catastrofi naturali. Assicurazione obbligatoria di 120 euro l'anno sulle case contro le calamità naturali, che in caso di mutuo sarà pagata al 50% dalle banche, prevedendo una ripartizione per le diverse aree di rischio previste dalle attuali classificazioni. È un'ipotesi che le maggiori compagnie assicurative, da Generali a Dinas Italia, da Toro a Fondiaria Sai, stanno predisponendo dopo il terremoto che ha colpito l'Abruzzo. Sì, perché il sisma che ha provocato oltre 290 morti, 10.000 case danneggiate, danni stimati fino a 3 miliardi di euro, avrà un costo limitato per le compagnie assicurative, compreso tra i 200 e i 400 milioni di euro. Le ragioni? La mancanza di coperture assicurative adeguate. Contrariamente al resto d'Europa, dove polizze anticalamità sono previste per legge, in Italia, in concomitanza con eventi di questo tipo, è lo Stato a pagare, non le assicurazioni private. In realtà, una polizza anticalamità naturale obbligatoria era stata proposta senza successo dal secondo governo D'Alema, inserita poi dal governo Berlusconi nella bozza della finanziaria del 2005 e di nuovo dal governo Prodi in quella del 2007. Le proteste erano arrivate però da più parti e alla fine non se ne fece più nulla. Ad oggi, dunque, chi volesse sottoscrivere una copertura assicurativa contro eventi sismici dovrebbe mettere in conto, oltre ad alti costi, difficoltà nell'individuare la compagnia assicuratrice. L'unica ad offrire al momento una protezione parziale dai rischi delle catastrofi naturali sulle abitazioni private è infatti AXA, che prevede un indennizzo pari al 50% del costo di ricostruzione se l'edificio è completamente distrutto e totale se l'abitazione è lesionata. Bisogna comunque ricordare che i rischi a cui può essere esposta la nostra casa, oltre a quelli legati alle catastrofi naturali, sono molti, eppure appena il 25% della popolazione italiana è in possesso di un'assicurazione sulla casa. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione per rivolgere ai nostri ospiti di stamattina le vostre considerazioni, le vostre domande, che potete rivolgerci anche alle 349 238 6666 attraverso i vostri messaggi. Vedo che ne stanno già arrivando, questo mi fa piacere. Allora, prima di tutto saluto e do il benvenuto ai nostri ospiti di questa mattina, per poi raccontarvi anche cosa è successo ad un cittadino dell'Aquila che un mese prima del terremoto si era coperto dal punto di vista assicurativo, adesso potrà addirittura essere risarcito quasi integralmente, appunto, per le sue abitazioni. Allora, intanto buongiorno a Francesco Paparella, presidente dell'AIBA, bentornato a discutere con noi di questi argomenti. Buongiorno a lei e ai nostri ascoltatori. Sì, buongiorno anche a Fabrizio Premuti, segretario nazionale di Adiconsum. E tra l'altro, per lei, Premuti, ho anche qualche domanda a proposito delle auto che sono state distrutte nel terremoto dell'Abruzzo, perché questo è un aspetto di cui si è discusso poco, forse, in questo frangente così, così delicato. Premuti, ben tornato a Salva Danaio. Grazie, buongiorno a voi. Siamo qui e cercheremo di rispondere a tutti. Lo so che siete sempre ben disponibili. E buongiorno e ben trovato a Salva Danaio per la prima volta invece Giuseppe De Luca, responsabile area retail del gruppo Toro Assicurazioni. Dottor De Luca, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ecco, tra l'altro volevo anche, e poi magari lo racconteremo un po' più nel dettaglio, ricordare che proprio l'altra volta, in concomitanza dell'altra trasmissione organizzata su questo argomento, l'altra puntata di Salva Danaio era stata fatta 3 giorni dopo il terremoto, se non ricordo male a Spanne, mi sembra il 9 aprile, e ci aveva scritto un agente della compagnia Toro prima che andassimo in onda con la trasmissione, sollecitandoci proprio a raccontare l'esperienza di Toro, che offre polizze che garantiscano dal rischio contro comunque fenomeni di questo tipo, di quelli di cui parliamo questa mattina. Poi ci faremo raccontare esattamente dal dottor De Luca in che cosa consiste l'offerta assicurativa appunto della compagnia in questo ambito. Volevo però raccontare, sto facendo una gran chiacchiera, però mi sembra interessante anche questo, cosa ha scritto Riccardo Sabatini, il collega del Sole 24 Ore, che quando mi occupo di assicurazioni cito sempre perché è la penna del Sole su questi temi, ha scritto dell'esperienza di questo cittadino dell'Aquila che ce l'avrebbe fatta appunto ad assicurare la propria casa contro il terremoto. Questa persona è un imprenditore, in realtà sarebbero tre i cittadini dell'Aquila che sono riusciti a coprirsi dal rischio sismico, in particolar modo questo imprenditore edile dell'Aquila un mese prima del terremoto ha stipulato una polizza per proteggere le sue due case di proprietà più altre due legate all'attività imprenditoriale. E lo aveva fatto perché si era preoccupato per lo sciame sismico che insisteva sulla zona, era diventato, ha raccontato a Riccardo Sabatini, l'argomento del giorno, e il mio agente assicurativo con cui lavoro da anni mi aveva dato la brochure di quella polizza per coprire i rischi delle catastrofi, io l'ho letta, mi è sembrato ragionevole il premio annuale da pagare e quindi l'ho fatta e adesso praticamente lui sarà integralmente risarcito. La polizza è stata fatta con il gruppo AXA che abbiamo citato anche nella nostra scheda e che per la verità abbiamo invitato anche a Salvadanaio, non sono riusciti questa mattina ad intervenire, una polizza che prevede un indennizzo parziale, il 50% del costo di ricostruzione se l'edificio va completamente distrutto, ma il risarcimento è totale con una franchigia se è soltanto lesionato. Allora, da chi partiamo? Paparella, ritorniamo, lei tra l'altro mi deve un po' aiutare anche a fare il giornalista stamattina perché mi deve aiutare a ricapitolare la trasmissione dell'altra volta dove avevamo ribadito le problematiche, come dire, di ordine tecnico che impediscono al settore nel nostro paese di predisporre un'offerta adeguata di prodotti contro questo rischio. Se lo ricorda? Certamente sì, la problematica di fondo è che le richieste pervengono solo da quelle aree che sono maggiormente esposte a questo rischio, quindi si crea quel criterio di antiselezione del rischio che non è accettabile per l'assicuratore. L'assicuratore deve sottoscrivere i rischi su tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo l'Italia è esposta al 67% dei comuni italiani sono esposti al rischio sismico e il 45,3% dei comuni invece è esposto al rischio di alluvione. Voi capite che quindi è un'area enorme ma che non è l'area totale. Siccome le richieste pervengono solo dalle aree più esposte, evidentemente i costi da sostenere sono impraticabili o addirittura si rifiuta la copertura. Questo vale per le abitazioni private perché già l'altra volta dicevamo che è diverso il modo di coprire per esempio gli stabilimenti industriali che viceversa questo tipo di garanzie normalmente hanno. Gli stabilimenti industriali quindi hanno la possibilità di sottoscrivere delle coperture. Se sono ben assicurati hanno anche gli eventi catastrofali fra le loro coperture, sicuramente sì. Ecco, però il problema che avanzava lei e questa considerazione l'avevamo fatta anche l'altra volta è sicuramente corretto, però non si riesce a capire bene se questo giustifica effettivamente il sistema assicurativo a non proporre l'offerta commerciale in questi termini, perché diceva il 67% dei comuni del nostro paese sono a rischio sismico, una percentuale altrettanto alta e a rischio di alluvioni, però insomma noi conosciamo anche sul nostro pianeta altre zone dove i rischi di questo genere sono forse anche più forti, eppure il settore assicurativo non si pone il problema se assicurare tutte le famiglie contro questi rischi. Avevamo citato l'altra volta il caso ovviamente noto della California per esempio, perché in altre parti del mondo il sistema assicurativo invece si presta a garantire queste coperture, Paparella? Per i motivi che le dicevo poc'anzi, poiché riesce a raccogliere premi per questa garanzia anche in quelle aree che sono meno esposte, creando così un substrato di incasso premi che gli consente poi di far fronte agli eventi laddove si verificano. La copertura del rischio terremoto o comunque del rischio catastrofale negli altri paesi o è assistita da una normativa di legge che la impone, ed è il caso di molti paesi europei, lei lo citava, ma io le dirò che è il caso anche del Marocco, che ha una normativa che impone la legge e che impone la copertura assicurativa sui terremoti, quindi non è solamente l'Europa, e questo consente di fare quella raccolta premi che poi consente agli assicuratori di acquisire coperture riassicurative sul mercato internazionale e quindi avere una capacità di risposta in termini economici che può raggiungere raggiungere i 7-8 miliardi di euro, non i 3 miliardi che diceva il presidente dell'ANIA, ma ben di più è la capacità potenziale del mercato. Poi c'è lo Stato che comunque, quando ci sono questi eventi, si deve far carico di una serie di cose che non sono comunque assicurabili, perché i costi attuali della protezione civile per ospitare nelle tende, dare assistenza eccetera, quelli comunque non troverebbero un ristoro assicurativo, come pure la ricostruzione delle infrastrutture, quelle stanno sempre comunque in capo allo Stato. No, però tra l'altro la discussione sul fatto che lo Stato possa in qualche maniera, qualora tutto il meccanismo si metta in piedi, fungere da riassicuratore di ultima istanza, voglio dire, comunque per intervenire a sostegno delle popolazioni del terremoto in questo momento lo Stato deve intervenire sborsando un bel po' di soldi, tutto il pacchetto appunto per sostenere la zona del terremoto, in questi giorni se ne sta parlando molto, cioè voglio dire, comunque lo Stato deve intervenire qualora risposta dell'emergenza in una fase successiva, quindi a questo punto tanto vale che magari si metta in piedi velocemente l'impianto che poi lo prefiguri come riassicuratore di ultima istanza. Paparella, lei che ne pensa? Ciclica, ricorrente all'indomani di ogni catastrofe, e poi viene sempre accantonata, tant'è vero come anche in questo caso noi abbiamo letto sulla stampa una lettera aperta del ministro Brunetta che sollecitava un intervento di questo tipo, quindi un'assicurazione obbligatoria, e abbiamo sentito sullo stesso giornale tre giorni dopo che il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia ci dicevano che non avevano nessuna intenzione di inserire l'obbligo assicurativo perché veniva considerata una tassa di scopo. È la vecchia diatriba che in questo Paese blocca tutte queste iniziative, lei l'ha ben citate prima, ogni governo praticamente ha fatto un progetto e ogni volta questo progetto è stato accantonato. Tra l'altro questa è stata la medesima considerazione che prima di iniziare la trasmissione abbiamo fatto con Giuseppe De Luca del gruppo Toro Assicurazioni, insomma all'indomani di una tragedia come quella dell'Abruzzo, ma purtroppo il nostro paese ne ha conosciute tante, il dibattito intorno al tema della sicurezza si scatena, si vivacizza notevolmente, dopodiché sfuma nel giro di poche settimane. Dottor De Luca, però ci racconti lei cosa è successo in Toro Assicurazioni all'indomani del terremoto, si è scatenata l'attenzione intorno alle coperture assicurative di questo tipo, anche se si è capita che la copertura che una compagnia può fare contro questi disastri è molto relativa, però in ogni caso la sensibilità è tornata ad aumentare, come fisiologicamente capita sempre, no, in circostanze di questo tipo. Beh, sì, innanzitutto mi permetta di puntualizzare che rispetto a quello che è stato detto prima, Toro Assicurazioni già dal 2007 offre una copertura assicurativa dedicata a questo evento catastrofale che è il terremoto, in abbinamento alla polizza dell'abitazione. Toro, nelle more che si possono prendere decisioni su tavoli politici e tecnici, ha deciso di dare delle soluzioni assicurative ai propri clienti, soluzioni assicurative che si configurano con una polizza separata che garantisce il fabbricato, tra l'altro lo garantisce fino ad un massimo dell'80% del danno subito, perché abbiamo previsto una scopertura del solo 20%. Ma glielo avrei fatto raccontare tranquillamente, dottor De Luca, non si preoccupi. Prego. Sì. No, volevo intanto come dire, continuare sul filone che avevamo iniziato per poi andare sicuramente nei termini della vostra offerta commerciale, però capire appunto che cosa è successo dopo il terremoto, quanto a richiesta di informazioni quantomeno da parte della gente, perché al di là dell'informazione che abbiamo fatto, la copertura c'è o non c'è, totale, parziale, eccetera, però anche magari quel poco che una polizza può garantire è sempre bene averlo. Quindi insomma, qual è la percezione della clientela? Noi in effetti subito dopo l'evento sismico abbiamo avuto una richiesta considerevole di informazioni, peraltro è anche aumentata la sottoscrizione di contratti subito dopo l'evento sismico che si è verificato in Abruzzo, ma questo si è verificato un po' in tutta Italia, perché la sensibilità del cittadino medio dopo un evento del genere è maggiore, per cui anche il ricorso a soluzioni che permettono di tutelare il proprio patrimonio aumenta. Sarebbe bello che questa attenzione ci fosse in ogni momento e non solo dopo questo evento, perché la nostra esperienza ci porta a dire che dopo 6 o 7 mesi da questo evento l'attenzione del cittadino medio cala, perché probabilmente non se ne parla più sui giornali, sui mass media in genere. Sì, vabbè, adesso quasi mi stava venendo da dire, per fortuna che ogni tanto ci sono queste situazioni che portano la gente a riflettere su determinate problematiche, magari ne faremo volentieri a meno di tragedie come queste, magari sarebbe necessario un po' impostare in termini un po' più generali il discorso con i cittadini su quello che sarebbe necessario fare per proteggere le nostre abitazioni e come anche instaurare in relazione all'offerta che è disponibile sul mercato un dialogo come dire serio e costruttivo con il nostro agente. Premuti, io per adesso non riesco a farle intervenire perché devo andare in pausa, ma da lei riparto nella seconda parte della trasmissione coinvolgendo subito anche i nostri ascoltatori Roberto da Salerno, Davide da Roma e Daniele da Livorno. Avete pazientato qualche minuto e ve ne chiedo ancora un paio, ma poi torneremo appunto su questo tema per sentire anche un po' come si sono mossi anche i cittadini in questa fase, anche nella ricerca di informazioni su queste coperture. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, questa mattina siamo ritornati su un tema che, come vi ho ricordato nella prima parte della trasmissione, avevamo già affrontato a qualche giorno di distanza dal terremoto che ha colpito la provincia dell'Aquila. Il tema è la copertura assicurativa per proteggersi da questi rischi e tutti i limiti che purtroppo ci sono nel nostro paese per avere un'offerta commerciale adeguata, dato che il nostro paese è comunque un paese ad elevato rischio sismico. E allora è un tema che ovviamente si è posto alla forte attenzione generale, del quale si sta discutendo, perché il tema in oggetto è anche quello di eventualmente obbligare alla sottoscrizione di una polizza in Italia, quindi la polizza obbligatoria. Al momento la discussione è sospesa, di fatto però da quando ovviamente c'è stato il terremoto in molti ci hanno chiesto di capirne qualcosa in più rispetto quantomeno, anche se con qualche limite, le proposte di copertura che sono in circolazione. E allora stamattina di nuovo con noi Francesco Paparella, presidente dell'AIBA, l'Associazione Italiana Broker Assicurazione e Riassicurazione, Fabrizio Premuti, segretario nazionale di Adiconsum, e Giuseppe De Luca, responsabile area retail Gruppo Toro Assicurazioni. Avevo promesso a Premuti di ricominciare la seconda parte con lui, ma ci metto anche una considerazione di un ascoltatore e vorrei sentire Davide da Roma, che saluta e ringrazio. Davide, benvenuto a Salva Danaio. No, buongiorno, grazie a voi per l'opportunità che ci date. Dica. Buongiorno ai suoi ospiti. Senta, io ho capito, Paparella si chiama l'ospite, Francesco. Dico Paparella, bene. Sì. Paparella, ok. La considerazione che ha fatto è molto chiara a livello matematico e di rischio assicurativo, però sì. Non si capisce perché un cittadino di Reggio Calabria debba assicurarsi contro le slavine o le valanghe, non essendo esposto a quel rischio. Perché in sostanza... Sì, ma lei non capisce perché per renderlo sostenibile a tutti si debbono comunque assicurare tutti, anche se le condizioni di... Ecco, ma allora il rischio di impresa, di copertura qual è, se poi dopo la compagnia assicura soltanto laddove sia controcoperta dai premi che pagano, perché il rischio viene pagato anche da chi poi non è all'effettiva espressione di quel rischio. In sostanza io non ne farei tanto una distinzione fra compagnie italiane e estere, ma anche la stessa compagnia che opera in Italia e in Europa ha in Italia normative che, cioè, sembra che all'estero sia un istituto atto veramente a prevenire, a tutelare il contraente. Qui sembra che ci sia un contratto atto ad evitare il rischio, ma per l'assicurazione. Voglio dire, se una casa non è tutelata da rischi sismici, da eventi, da terremoti, da guerre, da cosa deve essere tutelata una casa? Ecco, è come assicurare un'auto, dice sì, però non sei coperto contro gli incidenti, gli incendi e i furti. Stiamo assicurando. Sì, ecco. Sì, infatti Davide, insomma il tema è: se una casa in Italia non deve essere assicurata da rischio sismico, visto che è talmente diffuso questo rischio nel nostro paese, da che cosa deve essere assicurata? Davide, allora lei ha chiamato in causa Francesco Paparella, io però se mi permette vorrei riprendere da Fabrizio Premuti, perché credo che sarà stimolato ugualmente da queste considerazioni, poi sentiremo anche Paparella. Premuti, allora eccoci di nuovo a lei, cosa pensa qua della considerazione di Davide da Roma? Ma è una considerazione, io direi, del tutto reale, più che una considerazione è lo stato dei fatti. A prescindere dal fatto che, come abbiamo visto, le coperture offerte da compagnie italiane sono, oltre che limitate, molto scarse, perché parliamo appena di una o due compagnie. Il problema reale è proprio quello che, sulla considerazione fatta dall'ascoltatore, mi viene in mente che in questi giorni e nei giorni passati le compagnie d'assicurazione hanno scatenato già i loro investigatori per andare a verificare se i crolli sono dovuti effettivamente al sisma o per esempio a dei difetti di costruzione degli edifici. In questa maniera ovviamente è per imputare la responsabilità ad altri e non pagare loro gli indennizzi che dovrebbero pagare. E allora non è più una considerazione quella, ma è la realtà dei fatti su come sono troppo spesso costruite le polizze assicurative nel nostro paese. E si lascia uno spazio enorme all'assicuratore per poter mettere all'interno della polizza tutta una serie di esclusioni che ovviamente non fanno mai parte degli spot pubblicitari che vengono fatti quando si dice facciamo questa polizza. Il problema è un problema serio purtroppo, perché noi siamo in un paese, prima si parlava degli altri, delle altre nazioni, si è fatto l'esempio della California, ma io vorrei fare l'esempio di Tokyo, che sicuramente è una città moderna, una città dove tutti sono assicurati per il rischio sismico, laddove ci fossero effettivamente dei crolli, ma sappiamo che malgrado tutti i terremoti che Tokyo sopporta i crolli sono estremamente limitati, allora lì c'è un problema che si chiama in una maniera diversa prevenzione. Cioè noi abbiamo un paese dove le costruzioni, il pregresso edilizio italiano è un pregresso edilizio sicuramente a rischio, cosa che negli altri paesi che col terremoto hanno una convivenza molto più stabile, io direi una scossa al giorno, e il problema non esiste, perché le case sono state costruite seguendo dei criteri antisismici rispettati fino in fondo e laddove non fosse comunque con coperture assicurative che coprono fino in fondo. Ahimè, è considerazione dell'ascoltatore o purtroppo una dura realtà? Allora, insomma, un dibattito molto interessante. Volevo tornare, so che è stato interpellato Paparella, adesso lo sento, però volevo tornare anche un attimo a Giuseppe De Luca di Toro Assicurazioni, perché visto che state chiamate in causa anche, come dire, la scarsa trasparenza molto spesso delle condizioni contrattuali delle polizze, mi chiedo se almeno per quello che vi riguarda, visto che lei ci ha precisato prima molto attentamente che in ogni caso la vostra polizza contro il rischio da terremoto non fa parte, mi pare, di capire, di un pacchetto generale che copra anche per esempio furti, danni e quant'altro. Cioè molto spesso invece la polizza a rischio da terremoto viene coperto, ma in aggiunta ad altre forme assicurative più generali che tutelano tutta la famiglia, no? In questo caso voi mi diceva prima la potete fare separata e le condizioni contrattuali sono chiare per gli aderenti, dottor De Luca? Allora, sì, la nostra polizza è una polizza separata che noi oggi mettiamo a disposizione dei nostri assicurati, per cui coloro che hanno già garantito la propria abitazione possono scegliere di estendere la propria copertura con una polizza separata dedicata esclusivamente all'evento sismico, il terremoto. Qual è la condizione che chiedete sullo stato dell'edificio? Di fatto garantisce sia la parte del fabbricato, che in effetti è quella che in prima battuta viene danneggiata, però poi alla fine entriamo anche nel merito di altri problemi che il nostro assicurato si dovrà affrontare, lo abbiamo visto anche in televisione. In prima battuta deve trovare una soluzione su dove andare a dormire nei giorni successivi all'evento. Noi abbiamo pensato anche a questo e abbiamo introdotto delle condizioni aggiuntive che di fatto danno delle soluzioni per soluzionare per far ripartire la famiglia, in sostanza. Esatto, la famiglia deve continuare a vivere, non è bello vedere delle persone sotto delle tende o per strada o dormire in macchina, quindi noi ci siamo preoccupati di garantire nell'immediatezza una soluzione. Quindi mandiamo i nostri assicurati in albergo fino a un massimo di 15 giorni e garantiamo un rimborso estremamente molto importante, perché supera i 200 euro giornalieri. Peraltro ci siamo anche preoccupati che probabilmente riprendere la vita normale dopo un evento del genere richiede dei tempi lunghi, quindi ci siamo preoccupati anche di garantire un rimborso di spese di affitto che possono arrivare fino a un anno. Ecco, ma la casa che crolla, la risarcite fino a che punto? Cioè permettete alla famiglia che possa avere un po' di soldi per poterla ricostruire, però volevo tornare anche ad una fase precedente, cioè all'atto di stipula dell'assicurazione. Andate a monitorare anche in che condizioni evidentemente è l'abitazione e a quali condizioni dite sì o dite no? Alla sottoscrizione della polizza. Noi non andiamo a verificare lo stato dell'abitazione. È legato il contratto della garanzia terremoto, è legato al contratto della garanzia della casa e della famiglia, per cui ci sarà un valore del fabbricato che l'assicurato ci dichiarerà e noi su quelle basi daremo la copertura. Attualmente Toro dà una soluzione che permette di garantire fino all'80% della somma del fabbricato, e peraltro a questo ci siamo anche preoccupati di aggiungere un'integrazione aggiuntiva legata a quello che potrebbe essere il contenuto dell'abitazione, perché tutti si preoccupano del fabbricato, ma mai nessuno pensa che dentro al fabbricato ci sono dei mobili, ci sono dei beni che devono comunque essere risarciti. E noi abbiamo introdotto anche una partita che permette di indennizzare anche in modo aggiuntivo quello che è che potrebbe essere il valore del contenuto dell'abitazione. Benissimo, allora tra l'altro proprio a questo proposito, a proposito però dell'aspetto che sottolineavo io, cioè il fatto che comunque l'edificio debba essere in certe condizioni, perché dicevamo prima della polizza di EXA che adesso permetterà un risarcimento abbastanza cospicuo a determinati abitanti dell'Aquila colpiti dal terremoto, ecco però queste persone, come dicevo prima, avevano ristrutturato l'abitazione, le abitazioni interessate, perché erano più di una, secondo criteri antisismici. Allora su questo punto volevo sentire Federico da Roma, che è un nostro ascoltatore all'800240024. Federico? Sì, buongiorno. Buongiorno. No, il mio intervento era, molto mente c'è stata la risposta, era relativo proprio per sapere se queste compagnie assicurative chiedono una certificazione sulla bontà costruttiva dell'immobile. Beh, allora mi pare di capire che non lo faccia Toro, però le altre forse lo fanno. Federico, ascolti un attimo, sentiamo allora Paparella, riprendiamo da questo con lei, poi se vuole anche l'opportunità di rispondere all'ascoltatore precedente. Ma direi di sì, vorrei fare una premessa: come i consumatori ben sanno, il mio ruolo, il ruolo dei broker, è quello di far fare alle compagnie quello che non vogliono fare normalmente, quindi non sta a me difendere il meccanismo assicurativo, però il problema della solidarietà, o ciò più esattamente, il problema di una solidarietà del calabrese che si deve tutelare, che deve sottoscrivere la polizza contro la slavina sostanzialmente, no, di questo ma sta è evidente che il meccanismo assicurativo è un meccanismo di mutualità, tanto incassa e tanto può pagare. È un po' come funziona anche il sistema previdenziale nel nostro come paese, voglio dire. Il sistema previdenziale è come funziona qualsiasi altro sistema. Quando invece sentivo dire si va a vedere se il danno è provocato dal terremoto, ovvero da una malcostruzione, e quindi quello è un esimente di pagamento, in realtà non è vero, quello serve solamente a pagare il danno e poi casomai a rivalersi sul costruttore che ha costruito male, non è un esimente del pagamento del danno. Comunque, al di là di questo, il meccanismo assicurativo, ma qualunque tipo di rischio, si regge solamente sulla raccolta dei premi che devono far fronte al pagamento dei danni. Se questo non funziona, le compagnie non hanno possibilità di costituire le riserve matematiche. Il Giappone da sempre ha una legge che impone l'assicurazione obbligatoria di tutti i fabbricati, ed ecco perché lì le compagnie pagano i danni. Addirittura nel Giappone, perché vediamo come funziona nel resto del mondo, le compagnie assicurative giapponesi non possono lavorare all'estero se non guadagnando, perché se perdono devono chiudere le attività estere, proprio perché nel loro paese devono essere in grado di far fronte ai danni delle calamità naturali. Guardi Paparella, il principio lo abbiamo capito perfettamente, perché è di una chiarezza disarmante. Il tema è che non si capisce come non si possa riuscire in qualche maniera, dal punto di vista legislativo, a superare questa problematica, visto che comunque il nostro paese non è un paese che ha un rischio di uno tsunami da un giorno all'altro, è un paese che vive su delle evidenti, come dire, crepe territoriali, è un paese ad elevato rischio sismico, pertanto questo è un problema che però lei giustamente lo riconosce, lo ha riconosciuto all'inizio, che va in qualche maniera superato e che deve essere preso assolutamente in considerazione dal legislatore. Prima o poi bisognerà farlo in maniera seria, anche come dicevamo prima, eventualmente assegnando allo Stato il ruolo di riassicuratore di ultima istanza. Un ascoltatore ci ha scritto: ho scoperto che la mia abitazione, non so dove sia situata, è costruita con cemento scadente. L'impresario mi ha chiesto scusa quando l'ho fatto vedere. Cosa posso, cosa devo fare? Beh, certo, qua l'ambito assicurativo c'entra poco. Io lo denuncerei banalmente. Magari Lionello, non abbiamo tempo adesso di prendere in considerazione anche la sua situazione. Ce la scriva se vuole a Salvadanaio. Cercheremo di individuare un interlocutore giusto, che in questo caso mi sembra un buon avvocato, per poterla sostenere in questa questione così delicata. Allora sentiamo Daniele da Livorno. Daniele. Ciao. Ciao Daniele, buongiorno. La domanda è semplice: sto in un condominio, sono assicurato, però non so se sono assicurato per terremoto o alluvioni, robe varie. Vabbè, lì basta leggere la polizza, insomma. Vuole la polizza, siccome però sono in un condominio, mettiamo che non siamo assicurati, come si risolve la cosa? È l'amministratore che fa in obbligo per tutti? Ognuno si fa la sua? o si deve spingere, insomma. Tanto sicuramente Daniele, se lei è stato stuzzicato dall'attenzione, anzi se tu ci stavamo dando del tu, sicuramente è una questione che in assemblea di condominio si può porre chiaramente all'attenzione generale del consigliere piuttosto che dell'amministratore. Condominiale viene una volta l'anno, cose passano. Ma per fare una cosa veloce, telefonare all'amministratore, è assicurato, no, io voglio la mia, allora lui organizza un attimino. Chiara Livorno non è sismica, però... No, però dice, insomma, non si sa mai, quello che può esserci anche un altro genere di problema. Daniele, sì, la ringrazio. Adesso sentiamo come ci possono supportare tecnicamente i nostri interlocutori premuti. Posso cominciare con lei, Adiconsum? Ben volentieri, ma dovrebbe riassumermi quanto non l'ho sentito, era distratto. Non sentivo una parola. Allora, Daniele da Livorno, adesso magari tecnicamente non so cosa sia successo perché ci sembra strano, vive in un condominio. Lui vorrebbe capire intanto se il suo condominio è assicurato contro questi rischi, anche se parzialmente, perché questo è quello che c'è sul mercato adesso. E allora gli ho suggerito banalmente di sentire l'amministratore di condominio, il consigliere di condominio. Se non fosse assicurato lo stabile, come può fare? Porre la questione all'assemblea di condominio. Ma lui pone anche una terza questione: vive in un condominio di 10 appartamenti, se lui volesse assicurarsi e gli altri condomini non voglio farlo, cioè può fare una polizza che vale solo per il suo appartamento? Tanto voglio dire, le questioni sono due e diverse. Un conto è quanto sono le pertinenze private proprie, quindi lui può tranquillamente assicurarsi, laddove trovi la compagnia che ti assicura, il suo appartamento. Un conto sono tutti ciò che sono le parti in comune, quindi il palazzo, il condominio, e questo è una polizza che deve fare per forza di cose il condominio, quindi l'amministratore del condominio. È evidente che dovrà rivolgersi proprio all'amministratore per sapere se la polizza che sicuramente hanno fatto al condominio copre anche il danno sismico e in genere copre anche gli eventi catastrofali, perché poi ricordo bene che oggi parliamo di terremoto, esatto, perché c'è l'Aquila dietro l'angolo, però potremmo parlare di alluvioni, potremmo parlare di... perché c'è Alessandria dietro l'angolo, voglio dire 6.000 evacuati l'altra sera, per cui non è che... Quando capita nel nostro paese qualcosa, per Bertolaso ci sono sempre 3 o 4 situazioni concomitanti, non abbiamo mai capito per quale strana congiuntura, comunque a parte questa battuta, prego Premuti. E quindi sicuramente il problema va risolto in due ambiti ben diversi, che uno è quello collettivo del condominio, uno è quello privato, che è il proprio problema rispetto al proprio appartamento. Tra l'altro non ha chiarito se lui è un inquilino o è il proprietario dell'appartamento. Credo che sia proprietario, perché se vuole porre la questione in assemblea di condominio. Dove si pone il problema? Probabilmente sicuramente è il proprietario. Certo. Io mi permetto, non per essere polemico, ma mi permetto di ritornare un attimino su 5 minuti fa. Il nostro amico della Toro ci ha parlato della polizza, però non ci ha detto, per esempio, quali sono le esclusioni sul fabbricato. E non ci ha neanche detto se ci sono dei limiti di indennizzo, visto che hanno pensato al contenuto, ed è vero che il contenuto molto spesso è sottovalutato dall'assicurato, ma quali sono i limiti di indennizzo eventualmente per i preziosi, per i contanti, benissimo, per i quadri, per l'argenteria, perché io conosco quel tipo di polizze e so che a seconda delle partite merceologiche i limiti di indennizzo chiaramente sono diversi. Sentiamo Giuseppe De Luca, Toro Assicurazioni. Dottor De Luca. Sì, allora grazie per la puntualizzazione, perché mi permette di chiarire la circostanza. Come tutte le polizze sono previste delle esclusioni, ma ritengo che quella più importante da enfatizzare è quella che ovviamente noi escludiamo da questa garanzia tutti quelli che sono i fabbricati considerati abusivi in base alle norme di legge in materia urbanistica ed edilizia. Questa è la cosa più importante. Il resto sono esclusioni tipiche di una copertura incendio furto che non aggiungono nulla rispetto a quello che è l'evento. Quindi guarda, mi scusi se la interrompo, siccome c'è un ascoltatore in linea, Roberto da Salerno, la faccio io la domanda per lei. È possibile assicurare una casa per catastrofi naturali anche se in fase di condono? Quindi tecnicamente, da quello che lei ci dice, questa persona dovrebbe essere esclusa dalla vostra copertura? Non ho capito la domanda, mi perdoni. Posso assicurare, chiede Roberto, la casa per catastrofi naturali se è in fase di condono? Dipende per quali sono le motivazioni che hanno ricondotto la richiesta di condono. Se è una casa che comunque è stata costruita in base alle norme tecniche di legge e il condono è stato richiesto semplicemente perché ha una parte costruita in più o ha tirato su una parete o ha creato un nuovo locale, questo non dovrebbe limitare. Quello che mi premeva poi, giusto per rispondere ancora al collega che ha fatto la domanda prima, sul contenuto, noi il contenuto abbiamo introdotto una sorta di indennità aggiuntiva relativa percentuale che viene riconosciuta a copertura di questo tipo di eventuale danno che potrebbe subire il nostro assicurato. La scelta di optare per un'indennità aggiuntiva percentuale è stata fatta esclusivamente per agevolare il nostro assicurato. Si sa bene che quando succede un danno ci sono delle perizie da fare, delle verifiche da fare. Ci rendiamo altresì conto che a fronte di una casa che è distrutta, andare a vedere cosa c'era come contenuto diventa difficile. Un perito non potrà mai andare ad accertare se il mobile poteva valere 1.000, 2.000 o 3.000 euro. Per cui abbiamo scelto, in ottica di trasparenza e anche in ottica di agevolazione verso il nostro assicurato, di individuare un'indennità aggiuntiva percentuale. Quindi, che nella fattispecie è individuata nella misura che semplifica un po' la vita anche a voi, immagino. Ci fa un paio... Semplifica la gestione del sinistro, ma a vantaggio dell'assicurato. Ci fa un paio di preventivi, nel senso che insomma una polizza standard di questo tipo quanto può costare a Milano, quanto può costare a Napoli, quanto può costare teoricamente all'Aquila? Allora, diciamo che abbiamo preso, cioè possiamo prendere come esempio un fabbricato, un'unità abitativa con un valore orientativo di 200.000 euro circa. Noi andiamo da una zona a bassa sismicità dove il prezzo orientativamente può variare tra i 20 e i 25 euro, a zone ad altissima sismicità dove il prezzo può arrivare anche a 350 euro circa. Milano e Torino sono in una classe sismica media. Su Milano e Torino, per un'unità abitativa che vale 200.000 euro, il premio può variare dai 30 ai 45 euro. Volevo sentire Francesco da Ascoli Piceno con altre domande, tra l'altro stiamo rapidamente correndo verso la conclusione. Francesco, benvenuto. Sì, grazie, buona giornata. Ascolti, io volevo sapere una cosa. Spesso le polizze poi escludono i danni sulle cose che presentano dei vizi o dei difetti di costruzione. Sì, sì. Quindi è vero quello che si diceva, poi è oggetto di rivalsa, ma qui chi dobbiamo tutelare, cioè il soggetto che sottoscrive la polizza, quindi la rivalsa poi sarà casomai un compito della compagnia, che spesso però questa clausola evita il risarcimento all'assicurato, non evita poi l'azione di rivalsa, quindi è proprio un'esclusione. Quindi volevo sapere questo, e se poi la polizza è fattibile su tutti i fabbricati, a meno che non si faceva l'esempio del Giappone, della California, lì sappiamo già che tutti i fabbricati che vengono assicurati hanno già la certificazione antisismica, cosa che invece in Italia abbiamo visto che comunque questo non accade. No, infatti, anche se adesso tra l'altro pare che questa possa essere introdotta obbligatoriamente per quantomeno gli atti di compravendita delle abitazioni, ma anche questo è stato tutto sospeso. Paparella, abbiamo un minuto e mezzo di tempo, ci aiuta lei con l'ultimo ascoltatore? Ma sì, certamente, lui ha ragione, i vizi occulti possono essere un'esclusione, ma non in questo caso. Direi, se il testo di polizza è fatto correttamente, la rivalsa va fatta nei confronti del costruttore, ma questo non significa non pagare il danno al danneggiato, al padrone di casa. E poi sarà il costruttore che verrà chiamato in causa dall'assicuratore che ha pagato il danno, e che a quel punto diventa lui il creditore nei confronti del costruttore. Questo è il meccanismo della rivalsa, non è un'esclusione, è una capacità, una possibilità di recuperare quello che è stato pagato al danneggiato. E poi Francesco poneva anche il problema dei fabbricati coperti. Dicevamo che c'è l'esclusione delle abitazioni, però per quello che riguarda i fabbricati industriali la questione è diversa. Sì, i fabbricati industriali sono da tempo, godono di queste coperture come in tutto il mondo, anche in Italia. Io però completerei il discorso che volevo fare con la necessità di fare un salto di mentalità. Noi non diffonderemo mai questo tipo di coperture fin tanto che dal mondo politico ci perverranno dei segnali diversi, nel senso di dire le case le ricostruisce lo Stato. Oggi noi ci troviamo in presenza di un terremoto che costerà forse 8-10 miliardi e potrà quindi lo Stato farvi fronte, ma se questo terremoto si fosse sviluppato in un'area più ampia e avesse un costo complessivo magari di 30 miliardi, in un momento di crisi come questo, noi saremmo stati in grado di fare fronte senza passare il cittadino? No. È quello che dicevamo prima, dottor Paparella, si ricorda, insomma, piuttosto che fare adesso la ricostruzione totalmente a carico dello Stato, magari poteva venire incontro se ci fosse stata una legislazione diversa al settore privato, quindi a quello assicurativo, come il famoso riassicuratore di ultima istanza. Quindi la parte privata compete per quello che riesce a fare e per il resto interviene lo Stato. Probabilmente costerebbe un po' meno anche sulle spalle dei contribuenti. Non lo sappiamo, visto che stiamo parlando ancora di tutte ipotesi, ma sicuramente questo dibattito si infervorerà ulteriormente prossimamente. Io ringrazio, chissà che parola ho detto, infervorerà, terribile. Grazie a Francesco Paparella, Giuseppe De Luca di Toro Assicurazioni e Fabrizio Premuti di Adiconsum. Salvadanaio c'è domani con la guida alla lettura di testi di libri di economia e finanza, però divertenti, leggeri, non vi preoccupate. Noi ci risentiamo in diretta lunedì prossimo. Da Deborah Rosciani, buon fine settimana a tutti.